Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari ed Antonio Ceccato. Un saluto affettuoso a tutti i nostri ascoltatori da parte di Gesi e di Antonio. Eccoci qua Antonio, anche stasera. Ancora una volta insieme. Eccoci, ancora una volta insieme, speriamo che siano ancora tante volte. Lo spero sentitamente. A Dio piacendo, vero? Naturalmente. Allora, a te. Allora diamo un cordiale saluto alle amiche e agli amici di Blu Radio Veneto in questa nuova avventura sulle ali dei ricordi. Il nostro indirizzo internet è bluradioveneto.it e ricordiamo la possibilità di ascolto in streaming e il relativo download della trasmissione, con un saluto cordiale naturalmente al nostro regista e al nostro coordinatore. Sì. Allora, stasera abbiamo un ospite graditissimo. Molto gradito, è un cultore della trevisanità, o trevisanitudine chiamiamola, ecco. Ah, vabbè, trevisanità mi piacerebbe di più. E abbiamo con noi l'architetto Giorgio Fantin. Buonasera. Buonasera Giorgio. Bentornato fra noi. Non sono trevisano, sono cultore, mi piace sapere tante altre cose della nostra città. Ma è bello però sapere tutto della nostra città, insomma. È raro anche. Magari saper tutto, cioè che non sappiamo quasi niente. Lei sa tante cose che magari io non so sicuramente, quindi... E lei ne sa più di me per altre cose, siamo pari uno a uno. Va bene, allora prima ci ascoltiamo la prima canzone, poi diamo la parola. Ecco, la canzone è This Is My Song, di un noto cantante degli anni 60-70, un cantante inglese di nome Engelbert Humperdinck. È la mia canzone preferita, vedi. Why is my heart so light? Why are the stars so bright? Why is the sky so blue since the hour I met you? Flowers are smiling bright, smiling for our delight, smiling so tenderly for the world, you and me. I know why my world is smiling, smiling so tenderly. It hears the same old story through all eternity. Song, a serenade to love. The world cannot be wrong if in this world saying, without your love there is no day. So love, this is my song. Here is a song, a serenade. Song. serenade to you. Eccoci di nuovo in studio e diamo la parola al nostro architetto che ci dirà di che cosa ci parlerà stasera. Beh, caro architetto. Stasera intanto bisogna ricordare un attimo i carri mascherati che sono stati trasportati dall'ultimo martedì a sabato per motivi di pioggia, che poi non è venuta, un po' strani, perché anche la pioggia insomma si poteva accettare, che ha partecipato a questa tornata praticamente noi della congrega con tre ragazze vestite da Settecento e Nane De Oche vestito anche nel Settecento assieme al gruppo, davanti al gruppo folcloristico insomma. C'è anche Crespan. E ormai anche Crespan diventa vecchio, ma comunque siamo sempre là. Il discorso qual è? Che non ho visto tutti i carri, proprio l'ho visto la partenza così di queste ragazze, perché mi ricordavo i vecchi carnevali dove, che noi altri anche da bambini, se che ne facevano tutti i colori, ma si giocava con piccole trombette o con coriandoli e basta, non c'era spray. Niente altri supporti, niente altre cose. Ma soprattutto dopo il tempo di scuola, ciò che era le feste, una volta il comunale che aveva il veglione bianco celeste, era del calcio. Era cavalchina dei bambini, era cavalchina dei studenti al venerdì sera. Dopo il veglione della stampa e dopo era il veglioncino dei bambini la domenica. Cioè, c'erano 4-5 giorni di veglioni, il veglione della musica, il veglione della stampa, e cioè, era un percorso che si doveva fare. La città viveva di carnevale, lo viveva interamente, tutti vivevano in quel tempo là. Esatto. Adesso ne fa vedere i carri che arriva tutti da fuori, bravo Bagliana, perché senza dubbio merita anche un applauso. Se dà da fare, ma probabilmente mica pensare anche da cattivo che del martedì li ha fatti vedere su un'altra città, la Cacciapascheria, un'altra città, e dopo la Cacciapascheria da Treviso. Ma non è questo il discorso, è che adesso andiamo a vedere i carri, esatto. che noi altri si divertiamo con i carri. Da protagonisti una volta siamo diventati spettatori giusto? E anche un po' insulsotti, come dice, cioè, siamo spettatori che pretendiamo massa e dopo vediamo mai. Se è giusto esserghi, se è giusto che farli, ma il carnevale mi ricordo di altri tempi, anche c'era l'anno scorso spirito. Abbiamo fatto al distretto militare, abbiamo fatto ex distretto militare il giovedì grasso, che si faceva il giovedì grasso, ecco, era esatto. Un'altra cosa, e dopo la domenica abbiamo fatto il veglione di studenti e il veglione di sportivi. Quindi una grande effervescenza, ma non si riesce a fare niente, perché chiedergli al comunale, se andate a vedere, gli voleva tanti soldi, ma soprattutto togliere le sedie e dopo restava il riscaldamento sotto e ora bisognava riempire la stanza, non si poteva ballare, non si può, assolutamente. Non avesse più posti anche per divertimento. Solo cose di visualizzazione ormai, insomma. Ma anche i bambini si divertono meno, una volta si diverte perché ha visti lì in maschera e basta che dopo comprare questo, comprare l'altro e si diverte, insomma, che c'è il trenino e giostre in Piazza dei Signori, i bambini si diverte, ma ormai si diverte tutti i giorni. Sì, è vero, non è che l'aspetta il carnevale, l'aspettativa non c'è. Lo subisce anche, insomma, tanto è sempre una cosa bella per loro, insomma. Noi ci divertivamo anche con i burattini. E con tutto si divertiva, facevamo anche i burattini. Ah, quanto mi piaceva. Ma anche solo che maschere, perché le maschere sono tutte bellissime maschere, le vende, bellissime, ma una volta si faceva tutto dalla mascheretta. Spazio alla fantasia, vestiti, se la topaimo con il papà, tagliamo le cose. Spazio anche alla creatività, quindi individuale. Ma il carnevale deve avere un'origine molto... molto distante, insomma, da noi. Quello dico sì, perché senz'altro distante da noi, ma distante nei tempi, sì. Ma soprattutto perché era un momento di festa che mancava, cioè, in ogni posto, in ogni paese, in ogni religione, che manca dei giorni di festa, no? dove che fa baldoria fuori, che non sia consuetudine religiosa, esatto, insomma, esatto. Perché Nasegnanca è proprio religiosa, no? E, ma il carnevale no. E ora tutti gli stati che costruiscono la sua religione gli ammette la possibilità di festeggiamenti. Ah, mi ricordo il Purim, per esempio, l'ebraismo, eccetera. Esattamente, sì. E il carnevale di Rio dicono che sia un gran carnevale. Base sfacciato, penso. Sì. Penso di sì, comunque è bello, folcloristico, soprattutto insomma quello che mi ho visto per televisione, insomma. Sono stato a Rio, 5 giorni di piova, non ho neanche visto una beatosa, a Rio de Janeiro in spiaggia, ma una, se mi dai vedere su un negozio, una cassea, versi, fammi vedere dove che si ascolta, insomma. Comunque il carnevale è sempre una cosa che i bambini aspettano. È una gran festa sì. Deve essere fatto, ecco, questo è il discorso, è giusto anche di fare mezza giornata di festa anche negli uffici, nelle scuole, nelle cose, proprio per godere, fare, partecipare ai carnevali. Anche in Casamarca una volta facevano il circolo, facevano il veglioncino dei bambini, adesso... No, ma Casamarca faceva proprio... Mi lavorava con il vecchio Batacchi, che Ponveglione è il comunale, e faceva delle cornucopie, quindi veniva fuori di dischi di skate, di oro. Era amico, dipingevo le cose, faceva delle cornucopie che veniva proprio abbondantemente il denaro, insomma. Con Franco Batacchi senior, insomma. Sì. Che lavorava proprio al paviglione della Casamarca. Sì, ma adesso mi pare che non l'ho più visto nelle mail, per cui penso che non lo facciano più ormai. No, nessuno. No, ormai è stato un periodo di restrizioni. Ho letto sui giornali poco tempo ormai sulla fondazione, si è azzerata quasi, insomma, solo che problemi di sopravvivenza. Infatti, quindi... Ma sono tutte cose che spariscono, che lasciano però... cioè finisce un'epoca per conto mio quando finisce qualcosa che insomma anche sì, ma Cassa Risparmio non mi ha più regalato una cassetta per mettere a 2 soldi, anche ognuno dei noi da piccoli mi ho portato un giorno a comprare una vacca sono nel Casamarca, sta roba qua ormai non facciamo più. Ma sta chiuso il discorso. Ma anche neanche un'agenda. Neanche un'agenda ormai. No, guarda, veramente io non ho né calendario né agenda. Vabbè, un attimo che adesso ci ascoltiamo la seconda canzone in programma. Siccome in questi mesi, in questo, non so se sia febbraio o marzo, è nato Lucio Battisti. Il 3 marzo è nato... Sì, Lucio Dalla. Il 4 marzo. Ma in marzo è nato anche Lucio Battisti, non so se il 5, non mi ricordo. E allora ci ascoltiamo, Mi ritorno in mente. Torni in mente, bella come sei, forse ancora di più. Mi ritorni in mente, dolce come mai, come non sei tu. Un angelo caduto in volo, con questo tuo ora sei. Quella sera parlavi insieme a me e ti stringevi a me. All'improvviso mi hai chiesto lui chi è, lui chi è. Un sorriso e ho visto la mia fine sul tuo viso. Il nostro amor dissolversi nel vento. Mi ritorni in mente. Ed eccoci in studio di nuovo con il nostro ospite, al quale lasciamo così spazio, ampio spazio ai ricordi e alle tradizioni. No, invece è una cosa invece recente che mi ha fatto ricordare. Beh, allora hanno aperto una piccola libreria a angolo via Casugana con via Municipio, e dove c'era Botter una volta che le chiavi faceva chiavi. Ah, sì, chiavi, sì, sì. Proprio là. E la Santi 40, l'editore Santi 40 Mazzariol, sì, ha aperto lì il suo buco, simpaticissimo, libri piccoli, rettangolari, si può metterli in tasca, costano pochissimo, e ha riempito questo locale. Vado dentro, trovo una signorina, prima dopo l'ho conosciuto il giorno dopo, l'ho salutato il giorno dopo, insomma, lui. E compro un libro strano, che di un, non mi ricordo neanche più il nome adesso, ma insomma, Malagò, di un nome nostrano qui, che ha fatto un libro sui racconti, sui viaggi, sui viaggi del Settecento in avanti, dei viandanti, chiamiamolo così, da Bolzano, i trentini, che prima vendevano i pezzi di terra che trovavano da spaccare dalla montagna. Finita quella, hanno cominciato con le stampe dei Remondini di Bassano. Lo leggo e trovo parte dal 1770-1760, che di un viaggio a Cadice, poi e parla anche dopo, sono andati a finire in Russia, sono andati a finire in Germania, sono andati a finire in Svizzera, migranti antelitera, sempre a piedi, perteganti. Allora, pertegare è già una voce gergale, pertegas è la misura dei tanti passi, ma pertegare se scampar via, pertegare, perché uno che cammina veloce sarebbe... è il pertegante, se non che va a camminare. Esatto. E poi c'era il grimo, che significa vecchio, papà, padre, insomma. Grimo. Poi il febo, che è il sole. E leggo, mi metto, ma porco Giuda, che ne sa più di me o mi so più di io, perché ho scritto un libro, Gergo Trevisan, anni fa ancora, che mi è già rimasto due o tre copie, una spotacciata da me, una firmata da mia madre, che mi aveva dato il libro. E bisogna pensare che mi era domandato di fare un'edizione, di rifarlo sto libro. Però era un verbo, noi ragazzi, anche da parrocchia, voglio dire, perché a gruppi io vivevo Madonna Granda, non sono mai arrivato a San Nicolò, non sono mai arrivato in Piazza dei Signori, se non accompagnato da mio papà. Non so, il Piazza Duomo sono da quando che ho fatto la cresima. Cioè, era già il Treviso era già a quartieri. Sant'Andrea sul colle, neanche mai viene dopo, un amico mio che abitava in Piazza San Leonardo là abitava da... cioè eravamo un po' io ero metà fra Santa Maria Maddalena e Santa Maria Maggiore, perché era, la mia strada si divideva in due, proprio due strada parte per parte. Era un anno veniva Don Stefano, in altro veniva. E c'era un modo di parlarsi per non essere capito dagli altri. Il gergo era un gergo, un parlare della mala, in poche parole, degli zingari, anzi soprattutto gli zingari, e che veniva fuori un po' da Nicolò, dai case chiuse di Nicolò, che era il quartiere. Sì. Ma il quartiere viveva con la chiesa di San Nicolò, ben salda, con il suo Mazzarolli, con la sua parte, chiamiamo, poetica e religiosa. Di via di Daloro era un'altra, cioè era diritto di asilo, là nessuno, uno si rifugiava e non entrava mai qui da questura, i poliziotti non entravano mai, aveva diritto di asilo extraterritoriale. E allora comincia attraverso, insieme proprio con Giorgio Troncone, da fare un elenco delle parole che si conoscevano gli altri. Con Pantaleoni per Madonna Grande, che siamo accorto che era di più, non, anche parolacce, ma insomma più parole più gergali in San Nicolò che no, a San Madonna Granda. Febo il sol moro piccato, tutte quelle cose là, da ragazzi se sapeva così. Com'era la... Ma gli era una espressione, febo il sol, che invece se febo vuol dire sole, e moro piccato, non so per cosa che si diceva, ma era tutte le robe nostre che si parlava. Il discorso qual è? Che ho... Una bella precisazione, introduzione anche di Cino Boccacci che si manca, sì. Il quale anche io si ricordava che insomma cosa che mi parlava della Guardia Municipale, insomma, che come si diceva a Geffa, a Pula, era più i poliziotti e tante cose. Poi per esempio Grisby è già famoso perché ha fatto un film, Il denaro, il tesoro, il denaro. Dopo tanti vocaboli dal gergo sono travasati al dialetto e tante voci dialettali sono state storpiate dal coso. E posso dirvi per esempio così che una sera saremo trovati insieme con Mirko Trevisaneo. Mirko Trevisanello sapeva anche parole derivanze dall'arabo, cioè a canon, canon è canocchiale, ma a canon se di mettersi col culo per aria. Intanto in poche parole. No? E perciò è una voce che deriva dall'arabo, anche aligo, il caligo. Caigo, sì, la nebbia, no? Aligo con l'H davanti, mi diceva. E noi altri seguimo un po' a parrocchia, ora il pisto che chiamiamo il prete, che chiamiamo il nera, a nera, il vigi, ma anche il pisto perché è sempre la tonica nera. E soprattutto diciamo cangariotto, che mi pareva quasi una offesa, insomma, ma questa era che sapevo. Cosa mica. Vuol dire cangariotto? Cangariotto. E ora Mirko Trevisaneo che a sera mi ha illuminato e mi sono ubriacato di qualche ombretta che bevo del prosecco, perché mi dice semplicissimo, è Can Garit. Can è il gran cane della scalza, Gengis Khan, cioè è il re, l'imperatore, il signore, e Garit è la tenda, Garit è la tenda, perciò è la casa del signore, la tenda del signore è la chiesa. Ho capito. E perciò Cangariotto è il prete di Accesa, e Cangari è la chiesa. Insomma. Mi pareva che fosse quasi una parolaccia. Una roba inconsueta. Inconsueta e bellissima, dolcissima, insomma. Quindi il dialetto, anche il dialetto trevisano, ha fatto un'evoluzione, non è differente? Beh, il dialetto trevisano, ogni tanto mi parlo, anche adesso parlo dialetto, perché che dico sempre che sei che comunitari qua, cioè anche se sei... Da Coneiai, un'altra splatta, perché mi parlo dietro Trevisano. Mese Bellocca porta avanti cerca di portare avanti un dialetto veneto, ma è difficile. Noi diciamo cosa tiga, cosa tega, cosa tiga, diremo ga. Invece Padovani dice cosa ghetto, esempio, ghetto anche sì, il Rovigotto, e invece più beige, i veneziani cosa tiga. Cosa tiga, più bella, dolce. Più dolce, sì. Più anacquato, più solare, più. Insomma. E, solo voglio dire le cose, per esempio i nomi di persona, per esempio Anna asea fame. Anna. Alberto asea il vovo. Antonio asea pestaggio, vuol dire Antonio uno che pesta. Bastian è contrario alle regole, ma è abbastanza cosa. Bastian, sì. Bernarda Zenotte, ma anche una parola femminile. Berta è tasca, è pistola. In Berta. Berta, sì. Mettere in Berta. Quando dicono oggi non sono de Berta. Non sono de posto, non sono... Non sono di buon umore. Sì, sì, non ho scarsa piena di schemi, magari. Sì, sì, sì. Berto sei soldo, perché sono senza soldi, vuol dire che non sei di Berta, senza schei. Ah. A Bruna sei a notte, a Carla sei a sefide, Carlina sei a morte, il Carlo sei denaro, la Carlotta sei rogna a scabbia. La Carlina è a morte? Carlina sei a morte, sì. Carlotta, Charlot sei il boia, è derivazione francese, logicamente dall'argo. Sì. E dopo, bordello. In italiano, mi dice Merto Trevisanello, salto da dove che arriva bordello, dice. E beh, bordello è case chiuse, è parola italiana, ma salto perché siamo a bordello. Perché? o Bordeaux è sempre vicino l'acqua, dove c'è acqua il porto, o Bordeaux, una italianizzazione della parola francese, dopo, della frase francese. Cornelius e Cornuto, logicamente, essa sia spada. Una parte per il tutto. Fabriano è il sedere, Filippa è una veste femminile, Filippina è un'altra femminile ancora, il borsaiolo è Gaspare, paura è Giacomo e gambe fa Giacomo. Gianni è il carabiniere. Gianni si dice Gianni, a Gigia è sarà cinesca, Giorgina è a Baldoria. Giorgio è un nome fasullo, perché se parla fra me e Antonio dice sato Giorgio Megadito, mi sembra di parlare di tutte le cose, un nome fa intervenire terza persona, una terza persona, diciamo. Giovanni è Alfredo, logicamente da Genigo. Nane è Giovanni, è Nane Giovanni, è Nane Giulia, è a barba, mi mettiamo a greca perché aveva la barba e coso, facciamo ricati la ragionier battaglia, siamo tutti do ciccio si girava, basta, vedo che ne girava ti un po', si chiama la greca, era è grecista, era il barbiere, greca era la barba grecista battaglia. Avevamo anche noi un collega battaglia. Ne conosco tanti di questi nomi. L'ho trovato stamattina da giornalai. Cosa ha fatto qua? E Marianna, avanti Margherita, sempre Martina, Martino, Olga. Martina, Olga, cosa vuol dire? Martina è la spada. E difatti Martino è il pugnale, insomma. Martino è anche il marito cornuto. Olga è il brutto odore. La scoreggia. Paolo è Santimbanco, Paolino è il sedere ancora, Peppone è il scarpello, Pietro è il mantello, Pierina è la giacca, un codice assolutamente verbale, è il panciotto, Rosetta è furtiva, Simone è io stesso Simone. Ma allora come dicono, ho fatto una refurtiva. Ha fatto una rifurtiva, non so dire mai della rifurtiva. Ho fatto un pacco, ho fatto un qualcosa, un ciordo, ho fatto un ciordo. Va bene, adesso ci fermiamo per un'altra canzone. Sì. E andiamo a Lucio Dalla, che anche lui è nato in marzo, il 4 marzo, però vi faccio facciamo ascoltare Piazza Grande. Santi che pagano il mio pranzo non ce n'è sulle panchine in Piazza Grande, ma quando fame di mercanti come me qui non ce n'è. Dormo sull'erba, ho molti amici intorno a me, gli innamorati in Piazza Grande, dei loro guai, dei loro amori tutto so, sbagliati e no. A modo mio avrei bisogno di carezze anch'io, a modo mio avrei bisogno di sognare anch'io, una famiglia vera e propria non ce l'ho e la mia casa è Piazza Grande, a chi mi crede prendo amore, amore do quanto ne ho. Come di donne generose non ce n'è, rubo l'amore in Piazza Grande, e meno male che briganti come me qui non ce n'è. A modo mio avrei bisogno di carezze anch'io, avrei bisogno di pregare Dio, la mia vita non la cambierò mai, mai. A modo mio, quel che sono l'ho voluto io, lenzuola bianche per coprirci non ne ho, sotto le stelle in Piazza Grande, e se la vita non ha sogni io li ho e te li do. gente come me. Voglio morire in Piazza Grande tra i gatti che non han padrone come me, attorno a me. Eccoci di nuovo in studio e diamo la parola al nostro architetto. Torno sempre a mi parlare. Sempre. Allora, no, vorrei sempre del gergo trevisan dirvi l'Ave Maria. Ah, sì, benissimo. Allora, comincia, vasca carnente, occhi sommo ti sedici, il Signore ti ha fatto, cioè occhi sommo è il Signore da sopra, che ti sedice che ti ha fatto. O gira ingolfita del togo, o Maria piena della grazia, ingolfita piena del togo, della grazia. Sant'alto con tuisi, il Signore è con te, logicamente. Tuisi santociata fra le mine, cioè tu sei benedetta fra le donne. Fra le donne, sì. E santociato il ghivo del butrio tuo pivoso, e santociato e benedetto il frutto del ventre tuo Gesù, sì, bambino, sì. Pivoso, pivello pivoso del bambino. E togo gira carnente divele, era Santa Maria togo gira madre di Dio carnente, sì, di divele. Russia per i nostri visi zaffoni, prega per i tuoi peccatori, stunda adesso, stunda. E nel battente dello sballamento e nell'ora della morte e ni sta più e così sia. Ma che dialetto è sto qua? È gergo, è vasca carnente, o che sommi te se dici, o gira in golfita del togo, sì. Sant'alto tui tuisi, tuisi santociata fra le mine e santociato il vivo del butto tuo pivoso. Quella lì è quasi una, cioè, lingua, una lingua. Sembrerebbe una lingua diversa, no? È una lingua per non farsi capire, cioè il gergo è esatto, una metafora della lingua, insomma. E quindi ma adesso se lo dici adesso non ti capisce nessuno. E adesso vi dico il Padre Nostro, divele carnente dei nostri visi, Dio Padre Nostro, che stanzi soprarma, che sei nel cieli, sia santociato perciò il colore di tui visi, sia santociato il tuo nome, raccavalli il faro boro e venga il tuo regno, sia sediciata la vaschità, sia fatta la tua volontà, tanto soprarma come sul drum sei a strada, così in cielo, così in terra, sì. Rifiliaci mandolfa l'urto cuoto, dacci oggi il nostro pane quotidiano. Picciati i buffi, cioè rimetti i debiti, ecco il buffo, c'è il debito. Il debito. Come noi li picchiamo i nostri visi, come noi li rimettiamo ai nostri buffatori. E sino sbilanciarsi e senza indurci in tentazione, sarei incuri, e sino sbilanciarsi incuri, ci sedici dal zaffio e ni sta più, ci liberi dal male e così sia. Ma che strade, che strano. Cioè, questa qui c'è un Ernesto Ferrero che era a capo del Mondadori, che ha scritto i gerghi della malavita, sì. Ho comprato cosa, ma io ho inserito su questo libro mio, bellissimo, insomma. Se, Ferrero sì, sì, ma questi termini che ne sono in infinità, e parte che c'è il denaro, come si dice in 20.000 modi, dopo l'organo femminile, come che si dice, sì, l'organo, sì, maschile, sì, tanti, certo, certo. Tutte cose. Il mese dell'anno? Dell'anno? Sì, tutti i mesi, 12 mesi. Ah, ben che se tutti i 12 mesi dell'anno, che ne sei ancora di più, e anche i trentini e i giorni e ore. Ah. Allora, mica dico, vediamo qua cosa che trovo fuori. I giorni della settimana. Lunoso, martello, marcone, gioioso, benefico, sallustro o paganin, santosa. Paganin saria venerdì, ma invece qua lo mette sabato. Ah. I lustri della settimana: lustro della mocolosa lunedì, lustro del formigoso martedì, lustro del truccante mercoledì, lustro dell'antricrotto giovedì, lustro della maggioranza dei pivastri venerdì, della maggioranza dei pivei, lustro del grimo del sabato, del papà o del vecchio, lustro del ruffo o sant'altro, se è domenica. La domenica, insomma, ruffo non sei a rubare, no? No, se è il lustro del ruffo, se del sant'altro, se il ruffo, se una devozione, insomma. Ah. I trentini, gennaio se Gianicoso. Febbraio Borbotaro, marzo Balengoso, aprile Verdoso, maggio Sienario, giugno Ghivoso, Ghivoso. Luglio arruffitore, agosto solazzatore, settembre brioso, ottobre mostosaro, novembre nove lune e dicembre bambinaro. Però se noi proviamo a riflettere, hanno un senso questi nomi, sì, ma dico anche... E si riferisce esattamente proprio mese per mese, al giorno per sì, giorno. Cos'è, ottobre mostoso? No. Sì, mostosaro ottobre, sì. O sino ottobre marchese del Tossegoso. Il marchese che salì al mese, sì. Del gennaio del lenzore, del scaglioso febbraio, del cervante marzo, del cornuto aprile, dei carnosi maggio, del roverso giugno, del possente luglio, del cerchioso agosto, della giusta settembre, del tossecoso ottobre, del frizzante novembre e del ben nasuto o coda del drago di dicembre. Vabbè. Tutte robe bellissime, ma non è neanche fantasia, se fanno parlarsi sì, nel senso di un codice verbale praticamente. Molto, molto interessante. L'Europa nostra, l'Asia Sabilla, Africa Foresta, America Impunitona. Sì, la speranza di Lardi di arrivare impuniti e liberi. Insomma, bisogna impararle per poter parlare un po'. Sì, è una cosa. Sono anche annuati per Love. Mi diceva sempre qua nelle cose. Con Leoni che si andai a suonare a Trieste appena la guerra finì, insomma. E là era un'orchestra, diciamo io così, jugoslava, chissà da butta questa cosa. E andai una sera a sentire loro che suonava, e dopo ha battuto le mani, e l'altro non si parlava, La sera dopo i gari cambia che altri signori a trovarli. E ora, intanto che metteva gli strumenti, con Leoni che fa, che suonava la batteria, te l'hai dato Love, che ha detto che altro. E sti qua, che ha visto il gesto, ha detto Love, denaro, schei, sto qua. E si è messo a parlare in gergo, e si è a parlare, perché il denaro è foraio, insalata, Love, è il senso del coso, del lover, batti lover, denaro guadagnato, anche a sporco, cavia, cioè una lira è sempre un soldo. Cioè bisogna imparare queste cose. Il tincano, il twing, diciamo che hanno altri già in dialetto. Il twing, sì, il denaro, sì. Il boro, berto, poco denaro, brodo, il brodo a pittura, il sabbion. A pittura, a carta, scheo, denaro, no. Alcuni di questi baiocchi, bessi, pila, pevere, pila. Sempre anche al nostro dialetto. A pila, ponga, cani, grana, grano, farfalle se cambiare, cabriolette se assegni scoperti. Cabriolette. Sì. Oh, ma che bello, quanti gerghi. Il verdone se 5.000, la rossa se 10.000, il testone se 1.000.000, il cubo qua. È grosso. Sì, sì, sì. A parlargene, ecco perché io che mi ero entusiasmato il libro, no? Perché è corre via delle pagine dove che sono delle parole gergali, ma come che fosse parole italiane. Sì, sì, perché... Che ho scritto, che ho mandato il gergo a Trevisan e mi ha risposto, spera di conoscere, ma non sapeva che il del gergo fosse ancora, io pensavo fosse vecchio. Ma questo è che di Ferrero? Ho mandato del libro, sì. Che se conosceremo veniva a Treviso, proprio qua da Mazzarioli, se conosceremo. Mazzarioli, del quale ho visto un'intervista sulla Tribuna, mi pare, recentemente. Insomma, è un bel ammecco, bisogna che voto. Adesso ho scritto un libro che... Io l'ho conosciuto, Mazzarioli. Mi sono stato che è Osteria senza Osti. Cioè, qua su... Dalle parti di Valdobbiadene, se non ricordo male. Che è un libro scritto, insomma. Bisogna che voto ormai che ho leso, ma... Ma cos'ha, tutti i libri così, questo tipo? Sì. Su argomenti specifici. Argomenti specifici, sì. Sì, perché... Lui comunque è un editore, no? È editore, sì. Santi 40, sì. Sì, perché so che appunto l'ho conosciuto una volta con la nostra associazione, che è venuto con Mazzocato a fare... presentare. Mi sono rotto con Mazzocato, ma è meglio che non parla. Anzi, veramente sarei io rotto con mio. Ah, ma è sempre una questione alla Trevisana. Alla Trevisana. Diciamo, alla Trevisana. Per esempio, e scarpe, dopo il gergo, cosa ha anche del bello? Che lei mi dice una frase, invece il gergo esprime con una parola solo. Altri italiani ne tocca dire due o tre parole. Un'intera frase. E samocche. Sì. Cos'è le ciabatte? Scarpe. Ma non è scarpe per dire solo scarpe, è scarpe che te porti ogni giorno. E samocche. Invece e oche. E scarpe da festa, perché aveva punta nere con lunga, punta sì. Bianca, o bianche con punta nera, o con punta gialla, e oche. Ah. Tipo il becco di oca, e cioè le fanghe, e le fanghe del lavoro di ogni giorno, scarpe, che te la metti così, e calcose, okay. E qui che te va a calcare per la strada, e a calcose, insomma. Sì, quindi un concetto, quasi un ideogramma, un po' come sì, i cinesi, con una parola cinesi, solo ti esprimi un significato. Mi infilo le calcose, to. Sì. Mi infilo le oche, e dopo i cricche. E cricche e scarpe nuove. Ah. Perché una volta faceva cricche. E ora è Caegar che abitava a Vessindemila, studio davanti alla chiesa di San Francesco, e diceva che io spesso e volentieri che portava le scarpe e qualche le ricevava, che le metteva a staccare apposta perché gli chiedeva che facesse come fosse nove e cricche. Adesso no, è difficile sentire gente con le scarpe che scricchiolano. No, ormai che c'è tutte che sarà moda che cammina l'aria sui piedi. Ma una volta si sentiva tanto? Una volta mi sono riuscito a farmi fare un paio di scarpe rosse di quei tipo inglesi da un calzolaio. Le chiamavano, sì. Da un calzolaio là in via Sant'Agostino. Cioè, e porto ancora. Se sarà 40 anni. Sì. Porto ancora. E dopo sono andato a trovarne uno a strada, per dire la verità. Ma ti metteva sul piede. Su misura. Ti metteva sul piede, c'è pochi calzolai. Adesso ci sono pochi calzolai, effettivamente è vero. Purtroppo. Sì. Sì. Adesso ti mettono i tacchi anche. ti siedi là, ti mettono i tacchi. Sì, sì. In due secondi. Ecco, sì. Esatto. Comunque c'è un bravo calzolaio in via Avogari, là da quelle parti là. Sì. Sì, è Billy, si chiama Billy. Billy Carlesso. Billy. Tutti la famiglia Carlesso, che ne sia uno all'ospedale, uno in vicolo Trevisi, uno Billy in vicolo Avogari. Sì, là. Sì. È tutta una dinastia. Ma sono tutti. Il papà che era calzolaio scampa via con un'altra femmina e andava in Africa, e tutti i figli i calzolai sono da tre botteghe. Ah, tutti i calzolai? Sì. Vabbè, adesso ci fermiamo per un'altra canzone e poi proseguiamo. Allora, adesso ci ascolteremo. È una canzone cantata da Michele Zarrillo, 5 giorni. Mai sentito. Cinque giorni che ti ho perso, quanto freddo in questa vita, ma tu non mi hai cercato più. Troppa gente che mi chiede, scava dentro la ferita, e me non cicatrizzi mai. Faccio male anche a un amico che ogni sera è qui, gli ho giurato di ascoltarlo, ma tradisco lui e me. Perché quando tu sei ferito non sai mai, oh mai, se conviene più guarire o affondare giù per sempre. Amore mio, come farò a rassegnarmi a vivere? E proprio io che ti amo ti sto implorando, aiutami a distruggerti. 5 giorni che ti ho perso, 1000 lacrime cadute, ed io inchiodato a te. Tutto ancora più di tutto, per cercare di scappare, ho provato a disprezzarti, a tradirti, a farmi male. Perché quando tu stai negando, non sai mai, oh mai, se conviene farsi forza o lasciarsi andare giù nel mare. Rassegnarmi a vivere, e proprio io che ti amo, ti sto implorando, aiutami a distruggerti. Se un giorno tornerò nei tuoi pensieri, mi dici tu che ti perdonerà di esserti dimenticata ieri, quando bastava stringersi di più, parlare un po'. Eccoci di nuovo in studio con il nostro ospite per un'ultima tranche di ricordi trevisani. Ecco, io volevo fare una domanda. In questi ultimi 50-60 anni il dialetto trevigiano ha avuto un'evoluzione? Perché adesso mi pare che quasi quasi il dialetto sia tanto italianizzato. Ma la mia dedica del libro l'ho dedicata ai miei figli, sperando che pensa in dialetto e che mi facciano nel loro tempo, mi facciano conoscere dopo il loro gergo. E invece purtroppo i nostri figli ormai parlano tutti italiano. Noi il nostro dialetto una voce che chiama quasi, quando dei film ormai solo chi servi, solo che i camerieri che è vero. Ora saremmo vergognano altri, invece il nostro dialetto è già più bella lingua. Se vado in Francia parlo dialetto e pian pianetto capisco il suo e ora mi capisce me. In Spagna abbiamo quasi delle parole, tantissime parole, se parliamo piano si capisce. E è la lingua che ne ha portato avanti a Venezia, che è andata in tutta Europa, insomma, e anche magari nel Catai insieme con Marco Polo. Se vergogniamo di parlare dialetto, questa è la grave. Questa è stata il nostro grande tara. Perché il dialetto è un sinonimo del campagnolo, chissà. Del campagnolo, mi son degno di essere provinciale, mi forza di essere provinciale e di non essere globalizzato con tutte quante le robe che adesso non c'è più civiltà. Non c'è più identità. No, ma proprio manca l'educazione. Siamo andare giù dalla civiltà nostra. Se uno con telefonino così ti dice una parolaccia e non si firma, vuol dire che non siamo più noi altri, non siamo più. Vero. Il dialetto, per esempio, con Bellox si capisce giorno per giorno, io lo porto avanti, che vado di vocabolari anche sul dialetto di qua del Piave, che è molto diverso dall'altra parte. Esattamente. Ecco, se già per esempio noi altri diciamo i petti rossi, anzi che chiamiamo i petarei. Che è una ligama di maiali che fa male, se meno altri che sentiamo maiali, i petti rossi ancora riuscimo finché poi dice chi arriva da fuori Italia, perché quasi proibito, ma insomma. E già con Eliano vorrei dire che appena passa il Piave, cioè anche a Susegana, a Ponte del Piave, gli diciamo betarei. Sì, perché petarei va bene, ma betarei è quello che dico, già la cosa. E pensa a Vittorio Veneto, pensa a Bolzano, pensa in altre parti d'Italia. Cioè il dialetto veneto, il veronese ha un dialetto suo, il nostro è un dialetto trevisano, e se va anche a Ponzano, se va a Montebelluna, che c'è un altro altre forme di dialetto. Sì, ecco, sì, ma dico forme. Magari poca differenza. Ma per se si capisce, logicamente. Sì, ma per esempio, tra sinistra e destra Piave c'è una bella differenza. Eh sì, discorso sa che se. Parlare il dialetto adesso non è neanche più facile, perché prima i te guarda mal, prima tanti si smetterà anche qualche altra parola o meno, e è come il maniera semplice di una volta o è il maniera arricchito di tutto, insomma seguiamo di smetterà che maniera la cucina povera, la cucina povera. Mm-hmm. Il dialetto è la stessa roba, ne ha seguito con i nostri spazi, nel nostro cuore, nella nostra mente. Se ne è perché ne ha soppiantato dei valori o altri valori cosmopoliti, se vuol dire che sì, è tutto sbagliato. Sì. Ma io penso un giorno che la nostra generazione, non so se i giovani coltiveranno, ci sarà qualcuno che coltiverà ancora il dialetto. Ma diventa archeologia. Purtroppo, io penso che ho parlato del gergo, se non è scritto qua, è un parlare, è una cosa verbale, sì. È una tradizione tipicamente verbale, sì. Che si è focalizzato, ma che sparirà esatto. Logicamente. Ecco, occorrerà sì. Qualcuno che abbia un interesse settoriale proprio. Ma vede, non c'è dialetto che porto sotto Treviso, siamo trovati con. De Marco con Antonio con la figlia De Mazzotti parlando sempre de chi? Del bailo De Mazzotti de Botter il vecchio Mario de Memi e avanti di tutti quanti e mi dica i trevisani chi gesti qua. Abbiamo perso il dialetto, abbiamo perso la nostra tradizione, non ve ne frega sì. Niente i tosati vorrei dire del dialetto, non vi interessa niente. Prima che abbiamo parlato del carnevale, e lo accetta, e lo forma, sì, ma sì. Non ha interesse, ni legge più il Cronin, Steinbeck e Joyce, assolutamente. E Dostoevsky, perché mio papà che andava a rubare il libro che era dopo che domandavo. Ma, non leggono Dostoevsky, neanche Cronin, sicuramente. Ecco, ma ecco. Il discorso: Steinbeck, che mica ho imparato tutte le robe da tutte le cose. Il discorso. Adesso che c'è tutti i libri di moda che ti leggi su un fia e la potete esatto, là, anzi ne finisco neanche generalmente. Perché... Per quello che io leggo polizieschi e gialli. Mico ho letto tutto Maigret, per esempio. Anch'io tutto Maigret. Adesso sto leggendo il commissario Martini, che è un commissario... torinese. Ma vorrei probabilmente ritornare alla così trasmettere questo gusto le dico ancora dei libri sì. Siamo andati via qui Giorgio, siamo andati a Pirano a Rovigno e eravamo a Rovigno e tanti sono andati a mangiare, noi avevamo mangiare in pulma e ho detto ma andiamo un panino poi basta poi andiamo via e vado a portare via i sacchetti, due sacchetti dei immondizie su un a 50 metri, 30 metri più sotto, che era un pochettino più sopra, per portarla, alzo il cazzonetto e si pien di libri. Oh, ma pien di libri, pien di libri. Migo tre volumi di chi che ha scritto nelle mie cinque di tutti i pittori. Alla Vasari, le vite Vasari, le vite di Vasari. Migo tre libri. Da poco ho tolto sul libro, ogni uno, e le cose mi dice, l'autista mi dice. Guarda, si ne ferma in era alta tutto il pulma e di qua non andiamo più a casa. Si trova qualcosa, sì, no, per tutto, per qualsiasi cosa. E non stiamo ricciare, dice. E ora do io a uno a un altro, insomma, 10 libri che portai a casa. Ma Alfieri del 1700 era un timbro, un timbro di qualche d'uno che sta a Triestin. Un patrimonio di conoscenza. Signor. E che butta via libri di fotografie, libri di americani, libri. No, incredibile. Incredibile. E ho detto: sto qua è uno che non sa l'italiano e che ciò butta via tutto, ma che ne era anche scritto in inglese. Non ti capisci o se una depravazione come brusiamo i libri sì. Brusiamo le cose insomma Fahrenheit 451 le cose dei nazisti eccetera e questa soppressione della cultura non c'è più cultura sì. la cultura, ognuno di noi altri, anche parliamo a Treviso, cosa c'è la cultura? Era uno che piace la musica, va bene, ti piace la musica, a me piace anche a me, magari, ma non mi piace sinfonica, non mi piace chissà, gli archi, cose, mi piace Vittoretti perché suona quello che mi piace a me. Dopo, la cultura ha 20.000 spaccature, no? No, non è spaccature, vuol dire 20.000 sfaccettature, ecco, non è spaccature. Su quale che siamo inseriti o no? Allora, come si può creare cultura? Cosa hai da fare sta cultura? Perché tutti va a dire che fa cultura. Bisogna trovare dei filoni. Ma ci sono tante di quelle associazioni qua a Treviso, ma tante. Anche tante, anche troppe. Anche troppe, perché dopo... è vero. Il problema è fare qualcosa che sia di, come dire, di impatto per la popolazione. Noi altri adesso ne ha proposto ancora con la vecchia amministrazione, ma insomma adesso gli ha mandato le carte quella nuova, perché l'avvocato Ramanzini, che mi ha fotografato quel libro Treviso Rus, il vecchio Leopoldo Ramanzini, ha lasciato la sua abitazione nel vicolo del Podestà con un affaccio sul Can Maggiore al comune per motivi sociali, e adesso tre stanze gli ha messo due scrivanie per stanza, sia associazione va dentro, fa come recapito o meno, ma che c'è due saloni affrescati che sarà bellissimo, che sarà dei 60 metri l'uno, bellissimo insomma. Sì, ma ci sono tante associazioni di poesia, associazioni di... ma vi porterò una volta, se ce ne danno altri. D'accordo, volentieri. Che sarà un museo. È da utilizzare. Da utilizzare, ora mi porto avanti sempre notizie, magari che porterò, anche che parleremo anche un'altra volta, di far cercare di conoscere o fare una indagine o parlarsene fra noi altri, di tutte le eccellenze artistiche che ha la città di Treviso. Assolutamente, perché, un'iniziativa meritoria e necessaria. Ma perché bisogna fare che sapere, ma non solo i turisti, anche noi di Treviso. Prima di tutto noi, poi i turisti. Perché se sappiamo noi possiamo comunicare. Questo è, credo, fondamentale, perché è proprio mettere giù qualcosa che sia per il futuro, naturalmente, fruibile da parte dei trevisani. Primo futuro. Primo, proprio immediato futuro, direi, sì. È così, è sempre, corre sempre velocemente il tempo, comunque anche soprattutto per queste nostre, diciamo, belle chiacchierate, tradizioni trevisane. E non ci resta altro da fare che ringraziare il nostro ospite graditissimo. Io vi ringrazio, insomma, che avevo dito dal mezzergo trevisano. Benissimo, una cosa inedita, se queste robe che mi interessano altri. Allora, non ci resta altro che ringraziare i nostri ascoltatori e ascoltatrici per la pazienza che hanno anche quelli seguirci, che non ancora sono qui vicino, che anche sono e soprattutto stante, quelli che sono lontani. E al nostro ospite un ringraziamento e alla prossima. Va bene, ci vediamo. Dico ciao ciao. Ciao ciao a tutti. Avete ascoltato Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. Questo programma lo puoi riascoltare su bluradioveneto.it.